Europa 24. Buongiorno da Gigi Donelli, noi partiamo da una notizia sull'ambiente. L'UE dal 1990 al 2014 ha già ridotto le sue emissioni di gas serra del 23%, superando quindi il target fissato del 20% per il 2020. Ma per arrivare all'obiettivo principale, quello più ambizioso, del 40% entro il 2030, dovrà fare molto di più. E questa è la nota dell'Agenzia Europea dell'Ambiente, naturalmente in vista di questo grande evento che si apre a Parigi alla fine del mese di novembre, COP21. Altre notizie: il sistema dei ricollocamenti UE, che è stato di fatto appena creato da qualche giorno, da un paio di settimane, rischia di incepparsi. Con l'aereo che parte dall'Italia questa settimana con un centinaio di profughi, si esauriscono infatti i posti messi a disposizione fino ad oggi dagli stati membri. Sono solo 6 i paesi che hanno confermato la disponibilità ad accogliere e i numeri non sono all'altezza appunto delle richieste. Questo naturalmente sono fonti dell'Unione Europea, e su questo tema il governo sloveno, in una riunione d'emergenza che si è protratta fino a tarda notte, ha deciso l'impiego dell'esercito da affiancare alle forze di polizia impegnate nella sorveglianza delle frontiere per l'emergenza migranti. Il servizio. Non bastano i muri di filo spinato a fermare il viaggio dei migranti, che si spostano su altre strade, attraversano altre campagne, altri boschi. La Croazia ha più volte chiuso e riaperto la frontiera con la Serbia, l'ultima questa mattina, permettendo a piccoli gruppi di profughi di passare. Anche ieri Zagabria aveva prima chiuso e poi riaperto la frontiera a causa del flusso imponente di migranti presenti nei centri di accoglienza, e anche per le proteste della Slovenia, che accusa la Croazia di non rispettare le intese sulle quote delle persone da lasciar passare. I migliaia hanno trascorso un'altra notte sotto la pioggia e nel fango. Situazione tesa anche in Slovenia, che oggi ha fatto appello a una maggiore solidarietà europea. Lubiana si è detta sovrastata dal flusso di migranti e ha annunciato la mobilitazione dell'esercito. Solo ieri 8.000 persone sono entrate in Slovenia dalla Croazia. Secondo quanto sostiene Lubiana, solo 2.000 potranno proseguire il viaggio verso l'Austria. Vienna non permette l'ingresso che di un numero limitato di migranti, ha precisato il governo sloveno, suscitando la secca smentita da parte dell'esecutivo austriaco. Sulle coste siciliane e pugliesi oggi arriveranno poco meno di 1.200 persone e 100 lasceranno l'Italia per essere ricollocati in Europa. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Si avvicina la decisione della Commissione Europea sugli aiuti di Stato illegali da parte di quei paesi che stringono accordo ad hoc sul fisco con le multinazionali. Il servizio. Pronto un altro tassello nella lotta contro l'evasione ed elusione fiscale in Europa. Secondo la stampa inglese e americana, domani o comunque nei prossimi giorni Bruxelles annuncerà la propria decisione sui tax ruling. Gli accordi ad hoc esistenti tra singoli paesi e multinazionali, che vengono considerati aiuti di Stato illegali nel caso in cui le società ricevano condizioni di favore rispetto ad altri. Nel mirino della Commissione Europea ci sono il Lussemburgo, dove è scoppiato lo scandalo Lucky Leaks con Fiat Chrysler e Amazon, l'Olanda e Starbucks, l'Irlanda e Apple. Per il Financial Times, le prime società a rischiare il pagamento di milioni di euro di tasse arretrate sono l'americana Starbucks e la casa automobilistica. Già il 6 ottobre i 28 ministri finanziari dell'Unione Europea hanno raggiunto un compromesso sullo scambio delle informazioni tra governi, ci spiega Stefano Simontacchi, esperto dello studio Bonelli e Rede. Da un lato c'è il tema della trasparenza tra gli stati e quindi reciproco scambio degli accordi che prendono con i contribuenti. Dall'altro, con riferimento ad alcuni casi specifici, la Commissione Europea prenderà posizione su se questi ruling concessi costituiscano o meno degli aiuti di Stato. In tal caso il paese che ha concesso l'aiuto illegale dovrà chiedere il pagamento delle tasse arretrate alla società che ne ha beneficiato. Intanto dal 2017 entreranno in vigore le nuove regole, che saranno retroattive per 5 anni. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E con questo è tutto, adesso la linea va a tutti i convocati. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.